Europa 24. Buon pomeriggio da Laura Bettini per Europa 24. È periodo di vacanze per gli aeroporti, questa è proprio una delle settimane di maggior traffico di aerei e passeggeri. Di aeroporti parliamo oggi perché c'è una interessante sperimentazione che ci vede in prima fila e non solo a Ferragosto. Due aeroporti italiani, quello di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino, stanno infatti sperimentando il sistema Cascade, elaborato da ricercatori europei con il finanziamento della Commissione e finalizzato alla riduzione dell'impronta ambientale e dei costi di gestione degli aeroporti. La sperimentazione si concluderà l'anno prossimo e fornirà dati utili a tutte le aerostazioni del continente. Pur avendo una radice comune, il progetto si sta sviluppando su binari un po' diversi nei due aeroporti. Così oggi conosceremo la situazione di Malpensa con Giovanni Falsina, Environment and Airport Safety Manager di SEA, domani quella di Roma Fiumicino. Ci ha detto Falsina che Malpensa, già da prima del coinvolgimento in questo progetto, era molto attenta alla compensazione delle sue emissioni. Noi è il quinto anno che siamo neutrali, quindi che garantiamo una diminuzione delle nostre emissioni, peraltro significativa, e che neutralizziamo le emissioni che riguardano noi in maniera specifica, quindi non gli aerei che riguardano più direttamente le compagnie aeree, tutti i consumi e le emissioni legate all'infrastruttura aeroportuale, e le neutralizziamo comprando carbon credits. Carbon credits è una cosa un po' complicata per addetti ai lavori, diciamo che sono dei certificati che stabiliscono un costo per tonnellata di CO2. Insomma, la famosa borsa delle emissioni. Quello lì, esattamente, proprio quello. Noi abbiamo una quantità di emissioni significativa allineate a Malpensa, neutralizziamo queste emissioni comprando quantità corrispondenti di CO2 alle quantità di emissioni che noi abbiamo fatto. In questo contesto noi abbiamo partecipato ad un progetto molto interessante che si chiama Cascade, che riguarda la necessità di agire sui nostri sistemi di manutenzione e in particolare sui sistemi che governino tutta l'operazione dei microclimi all'interno delle nostre aerostazioni, quindi gli impianti di condizionamento in senso un po' più ampio, vuol dire, ma non è assolutamente opportuno entrare in un fatto tecnico per addetti ai lavori. I nostri impianti di condizionamento hanno subito una serie di interventi legati a installazione di sensori e all'attivazione di un sistema di governo e controllo di carattere informatico che non solo ottimizza il meccanismo legato alla temperatura interna e ai ricambi d'aria, ma ci dà un'indicazione importante quando abbiamo dei malfunzionamenti. Questa cosa tecnicamente si chiama fall detection, quindi noi abbiamo un malfunzionamento, abbiamo un segnale in una control room, in una sala di controllo di Malpensa, e quindi riusciamo ad agire in maniera tempestiva evitando che ci sia un malfunzionamento che genera effetti negativi per un certo numero di ore, o potrebbe essere anche di giorni, se uno non agisce. Non se ne accorge, certo. Non magari. Se ne accorge, non lo sa. E questo determina ovviamente un malfunzionamento che agisce in una efficienza negativa dell'impianto che ha subito questo aspetto tecnico negativo, e per noi vuol dire avere delle emissioni che non riguardano più la linea di gestione che ci eravamo dati. Senta, ma quindi se capisco bene, c'era quella linea che voi avevate già intrapreso con i certificati, la borsa delle emissioni che dicevamo prima, alla quale si è affiancato poi questo progetto, sì, europeo. Esattamente. Questo vi consentirà forse anche di spendere meno in quella borsa famosa, no? Se riuscite. Certamente che sì, perché noi praticamente abbiamo già visto quest'anno, abbiamo avuto un calo importante in termini di spesa. In questi 5 anni noi abbiamo avuto progressivamente un'attenzione crescente a determinare minori emissioni, e quindi abbiamo naturalmente avuto necessità di comprare minori carbon credits. Questo progetto va proprio in questo senso, quindi noi abbiamo agito in questo modo per diminuire ulteriormente le nostre emissioni, e quindi diciamo che in modo proporzionale abbiamo meno necessità di comprare carbon credits. Questo è esattamente come sta dicendo. E come ci si collega a questo punto con la riduzione dei costi energetici? L'emissione in realtà è una conseguenza del consumo. Noi in pratica abbiamo un ciclo che consuma energia e come conseguenza emette CO2, o viene praticamente tradotto il consumo di energie in tonnellate equivalenti di CO2. Se noi abbiamo un sistema come abbiamo, che è più attento a regolare il microclima, quindi diminuisce il consumo di energia che noi dobbiamo mettere in campo per mantenere un'ottimale situazione di microclima all'interno delle nostre aerostazioni, abbiamo come conseguenza non solo minore spesa energetica ma anche minore emissione. Quindi, come dice esattamente lei, il tema principale è diminuire il nostro impegno energetico. Il fatto che poi diminuiamo l'impegno energetico tendenzialmente vuol dire nel 90% dei casi avere una ricaduta positiva anche nei minori emissioni di CO2. Era Giovanni Falsina, manager di SEA, appuntamento a domani alla stessa ora per vedere cosa si fa a Roma Fiumicino per abbattere consumi ed emissioni. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.